X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Maurizio Martina, bergamasco, 37 anni, sposato con due figli, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La politica è la sua grande passione, politica e agricoltura, ma il suo cuore batte anche per l'Atalanta. Nel 2007 è tra i fondatori del Partito Democratico, nello stesso anno con le primarie eletto segretario del partito. Da febbraio del 2004 è ministro dell'agricoltura del governo Renzi e presiede la commissione di coordinamento per le attività connesse a Expo 2015. Allora comandava lei o Sala? Ad Expo? No. Capo macchina era Sala, era assolutamente. Sala. Lei coordinava cosa? Ah, io ho fatto tutto il lavoro di preparazione del paese, un bel po' di iniziative che siano state utili. Ma ha avuto paura quando sono cominciati gli arresti a Expo? Beh, ho avuto un momento di grande difficoltà dove onestamente... Ha pensato non ce la faremo? Sì. A un certo punto sì, poi però per fortuna immediatamente ci siamo messi a lavorare. Ma alla fine è andata bene o no? È andata molto bene. Sì, però c'è chi ha detto che i biglietti venduti invece di 22 milioni come annunciati sono 18, con lo stesso risultato dell'Expo di Hannover del 2000 che era stato considerato un flop. Ma guardi, io invece vorrei raccontare la storia di successo di Expo, perché quel decumano, quelle giornate straordinarie di partecipazione ce le ricordiamo tutte, anche i numeri. E anche i numeri sono molto importanti. Ecco. Sa qual è la cosa che mi colpisce? Sì. Che Expo è riconosciuta quasi più fuori dal nostro paese che dentro. Bisognerebbe pensarci. Giusto. Però la società Expo, secondo il Fatto di oggi, chiude con 242 milioni di buco invece dei 32,6, sempre non pochi, annunciati. Allora è vero o no? No, non è vero. Ma mi dà lei i dati certi e definitivi allora? Ad aprile, quando come tutte le società si chiuderanno i bilanci. Ah, non mi dà un'anteprima? No, perché giustamente questo lavoro è un lavoro che devono fare i tecnici e devono concluderlo. Discuterne quando la partita non è ancora chiusa fa parte del dibattito. Insomma, dopo le elezioni? No, prima si vota, guardi, poi si daranno i risultati. Come tutte le società, né vabbè. Più né meno. Senta, al di là dei numeri, Guido Barilla, che è il presidente del gruppo Barilla, ieri su Repubblica ha detto: l'Italia ha perso un'occasione importante. L'Expo non doveva essere solo una vetrina per far conoscere il prodotto, ricevere capi di Stato, ma nasceva per far capire il problema dell'alimentazione e del cibo che deve essere affrontato in tempi brevi per evitare conseguenze. Cosa risponde Barilla? Non sono d'accordo con Guido Barilla, no. Perché in realtà noi abbiamo seminato tantissimo nei 6 mesi di Expo, anche sulla grande partita del diritto al cibo. E se ci sono adesso in corso delle iniziative di carattere internazionale che hanno più evidente il nodo cruciale della democrazia del parte cibo, da lì. È anche perché l'Italia ha fatto Expo. Senta, ma che fine ha fatto la carta di Milano che era stata presentata in pompa magna a Expo? Sa qual è la fine più bella? Se andiamo insieme in qualche scuola elementare media nel nostro paese, troverà dei cartelloni che raccontano il lavoro educativo che tante scuole stanno facendo, quindi, proprio sulla questione. E quindi del quello è il cibo. Programma che il ministero tiene vivo, lo non tiene solo. Vivo così? No, non solo. Come? C'è tutto il fronte dell'educazione alimentare, c'è tutto il grande tema dell'esperienza agroalimentare italiana nel mondo e poi stiamo lavorando moltissimo con FAO, con l'ONU, l'impegno continua. Senta, però nel frattempo che capiamo com'è andata, ad aprile sapremo i dati. Pensiamo al dopo Expo, c'è il rischio che finisca un po' come Bagnoli, la Landa desolata o no? Non lo credo. No. Penso quindi che siamo non partiti... capitale nel deserto. No, anche perché Milano ha degli anticorpi e ha forte. Una capacità di leggere anche questi problemi diversi. Ma in ogni caso credo che ci siano le occasioni per fare un salto enorme. Con cosa? Con Human Technopole? Che cos'è anche esattamente? Con il progetto Human Technopole. Che cos'è esattamente? In due parole. È la scommessa di un paese che vuole investire sulle scienze per la vita, costruendo un grande centro di caratura internazionale, esattamente come hanno fatto tanti altri paesi. Ma si basta vede per Max Planck in Germania. Certo, ma basta per riqualificare tutta una zona così enorme? No, eh? È solo un pezzo di un questo pezzetto, lavoro. Un pezzettino, sì. Piccolino, e il resto del... Però da qualche parte bisogna partire. No, noi, certo. Io faccio solo domande. Ma il resto dei metri cubi che ne facciamo? Ma intanto è importante che il governo sia entrato in area Expo, è importantissimo che oggi ci siano due persone della caratura di Giovanni Azzone e di Giuseppe Bonomi a guidare questa nuova società. Giovanni Azzone è il rettore, certo, del Politecnico, sì, una figura di grande esperienza. Adesso si lavora e si riprogetta quell'area complessiva. Senta, ma perché, ministro Martina, perché Expo 2015 non è stato mantenuto come evento permanente? Perché non si può. Magari si potesse fare un Expo permanente, ma ragioniamo tanto e bene, giustamente, di costi. Quando uno domanda se può continuare vita naturale durante un evento del genere. Ma ci sarà una figura come Sala, un super commissario? Ma intanto, come dicevo, ci sono Azzone e Bonomi, sono due belle figure. No, ma per la gestione di tutta l'area, tutta la Beh, area queste Expo, due figure insomma, hanno in capo la responsabilità anche, ora di progettare l'intero sito. Senta, a proposito di Sala, lei è stato un suo grande sostenitore, sì, e i risultati delle primarie le hanno date ragione. Secondo lei vincerà? Eh? Sì. E che sindaco potrebbe essere Sala di diverso? Me lo immagino come sarà un sindaco proiettato a costruire la Milano del 2020, farlo con lo spirito giusto, dal basso. È una persona di grande esperienza, di grande umiltà, ci ha messo del suo in Expo e ha fatto bene. Ma tutti i problemi che sono usciti su di lui, la casa, i cose, insomma, una serie, gli architetti, insomma, non bisogna avere sono paura problemi di confrontarsi risolti su cose banali come queste. Quindi tutti risolti, diciamo. Beh, direi proprio di sì. Senta, Sala non è, però, è un tecnico, non è un politico. È che la politica non ce la fa più a produrre classi dirigenti. Non sono d'accordo. Io penso che invece la politica deve scommettere su figure. E fa bene a scommettere su figure come quelle di Beppe Sala. Un tecnico fino a un certo punto, perché guardi che Expo è stata una gigantesca iniziativa politica. Certamente. Coordinare anche Expo non è un fatto tecnico, è un fatto politico. Senta, lei è un politico puro invece. Fare politica e basta. È ancora possibile nella società dei saperi e della conoscenza? Io penso che sia necessario. Perché? Perché la politica è fondamentale in Italia come nel resto dell'Europa, perché avere classe dirigente sul versante dell'impegno politico fa la differenza. Quindi politico puro sì. Cimentarsi non c'è con problema la palestra della politica non è banale. Va bene. Senta, anche a Roma però i candidati più forti vengono dalla società civile, molti, Bertolaso, Marchini, La Raggi. Anche a Roma la politica arretra però. Beh no, se guardo al centro-sinistra del PD ci sono delle esperienze di grande significato che hanno fatto palestra. Chi è Sala della situazione a Roma secondo lei? Questo io non posso dirlo, però posso dire che sono molto amico di Giacchetti. Senta, e Bertolaso non andava bene anche per voi? No. In fondo lui ha votato per Rutelli, è stato con lui, con Giacchetti stesso. A mio parere a Roma in particolare bisogna cambiare passo. Senta, quindi bisogna scegliere figure nuove. Senta, a Roma molti dicono che nel renzismo c'è un forte sentimento antiromano, è vero? No, non lo credo. Antiromano no. C'è una forte iniziativa probabilmente a superare alcuni palazzi, alcuni salotti, questo sì. Senta, qualche giorno fa la sua componente politica Sinistra e Cambiamento ha organizzato un convegno dal titolo un po' democristiano, Tante anime, un solo partito. Cioè vuol dire che lei è diversamente renziano? No, vuol dire che un grande partito come il PD deve vincere la sfida della pluralità e dell'unità. Non l'abbiamo ancora vinta. Insomma, fino le in fondo correnti. In no, questo senso dico democristiano. Le sensibilità culturali in un grande partito ci stanno. Certo. Vale per le correnti come per il così PD. Come sensibilità culturali diverse. Ma per lei Verdini in maggioranza è un problema o no? Io penso che sì o no? Fin tanto che sono voti aggiuntivi hanno la dignità che devono avere quando stanno nella vicenda quindi politica. Quindi no. Non è un problema. Non è un problema. Bersani dice che invece è come Razzi e Scilipoti. È un po' troppo. Ma io non voglio guardare indietro, voglio guardare avanti. E soprattutto voglio pensare alle cose che dobbiamo fare ancora in questo paese nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per farlo uscire dalla crisi. Cosa le piace di più di Renzi? La determinazione. E di meno? Tiene la Fiorentina, non va bene. Ah, vabbè, ammazza. L'unico difetto. No, ce ne sono anche altri. Beh, quello dicibile è questo, diciamo. È quello dicibile. Va bene. Senta, per esempio sull'Unione Civile lei era favorevole alla Stepchild Adoption. Sì. Perché? Perché penso che al pari di altri paesi europei dobbiamo riuscire a costruire anche in Italia una legge all'altezza di una vicenda delicata come quella delle adozioni. E quindi Nicky Vendola che ha annunciato la nascita del figlio grazie all'utero in affitto. Sinceramente non voglio piegare questo dibattito a vicende personali. Ma come la giudica questa cosa? Gli faccio gli auguri. Grande rispetto, dopodiché al pari della presidente Boldrini e di altri ho delle riflessioni da fare sul tema. Senta, a proposito della Puglia di Vendola, si è alzato un problema molto alto, quello del batterio della Xylella, lo sa. E ora, adesso, prima quello dell'olio contraffatto. Senta cosa ci ha detto Giampaolo Sodano, produttore di extravergine, a proposito dei casi di grandi marchi italiani di olio extravergine taroccato. In Italia è nata, unico paese al mondo, la più grande e strutturata azienda di confezionamento di olio di oliva. E siccome siamo anche il paese che ha una storia famosa nella produzione di questo prodotto, i grandi marchi, cioè Bertolli, Carapelli, Sasso e quant'altri, sono stati acquistati da grandi aziende spagnole o da fondi di investimento inglesi, e poi a questo punto, sai, e quindi loro, a loro la qualità cosa. A loro la qualità interessa meno, interessa il made, certo, in Italy, e quindi ci facciamo del male da soli in qualche modo, sì insomma ci facciamo del male da soli con i 70.000 tonnellate che arriveranno nei prossimi 2 anni. Parla dell'olio tunisino, sì, in questo caso, sì. Non dobbiamo farci del male, dobbiamo battagliare anche su questo fronte, lo stiamo facendo. Ma come ci si difende da questa invasione, al di là delle parole? Non però stiamo attenti alle parole, non stiamo parlando, appunto, di invasione, perché se guardiamo i numeri non stiamo parlando di invasione. Certo, bisogna evitare scelte come queste. Noi abbiamo detto la nostra, abbiamo anche impegnato il Parlamento europeo, la Commissione, a modificare una parte di questa scelta. Dopodiché il tema vero è come si posiziona l'olio di qualità italiano, esatto, nel mercato globale. Proprio. Se guardiamo gli ultimi 10 anni, abbiamo avuto un'espansione, per fortuna, della nostra capillarità, della nostra presenza nel mondo con l'olio italiano di grandissimo significato. Senta, su Agromafie però l'export, si dice che l'export di prodotti alimentari veri si ferma a poco più di 27 miliardi di fronte ai 60 miliardi di finti prodotti made in Italy, quasi il doppio. No, quindi attenzione, è una battaglia persa. 2015 36.8 miliardi di export agroalimentare in Italia, 27, un gran passo in avanti. Negli ultimi 10 anni, e quelli finti, quanto? Sono esplosi. Rimane il grande tema della contraffazione in giro per il mondo, dobbiamo battagliare, è un tema complesso, soprattutto fuori Europa. Infatti in America, per esempio, diceva col diretti il guaio che la maggior parte delle volte ha ragione chi falsifica, perché riesce a dimostrare che un nome è ormai generico. Insomma, presentare spaghetti, meatballs con un piatto tipicamente italiano si può fare, non c'è problema, non è reato. Il divieto di evocazione di colori e titoli italiani è la grande frontiera del confronto tra noi e questi mercati. Bisogna andare lì, contrattare, bisogna andare, bisognerebbe essere già andati. Ci siamo, come è accaduto per il Canada con l'ultimo accordo bilaterale, adesso bisogna discutere con gli Stati Uniti. Lei dice che con gli Stati Uniti l'accordo bilaterale lo si fa a favore del Made in Italy? No, dico che costerà fatica, che bisogna battagliare ancora, però quella è la frontiera, cioè la partita, certo, non la scegliamo noi, il terreno di gioco mica è quello. Che non c'è dubbio, ma per sostenere il comparto agroalimentare voi avete fatto una campagna pubblicitaria importante, 50 milioni di euro, non so, mi dicono. In accordo con chi? Abbiamo fatto il più grande piano di comunicazione. Ma con chi? In accordo con chi? L'avete fatto con gli operatori? ICE, MISE, tante imprese che hanno condiviso. Cioè gli attori dell'agroindustria sono stati coinvolti? Una parte importante di loro, sì. Poi se mi chiede l'unanimità non ci sarà mai in questo quella paese, non c'è da nessuna parte. Senta, voi avete organizzato una cabina di regia per la pasta, ma la Coldiretti ferma le navi che trasportano il grano duro per farla, perché? Guardi, abbiamo organizzato una cabina di regia per la pasta con il Ministero dello Sviluppo Economico perché è giusto che produttori e trasformatori lavorino insieme. Io non sono per fermare le navi, per fare grandi progetti di filiera. E anche sulla filiera grano-pasta dobbiamo fare un bel salto in avanti. Ci sono le condizioni per perché farlo. Sennò quali grani, i pastai, con quali grani la fanno se hanno esaurito il grano italiano? Questa è una grande vicenda che, come sapete, ereditiamo dal passato. Bisogna che lavoriamo insieme a integrare di più la filiera e ci sono le condizioni per farlo. Senta, andiamo in Sicilia, in particolare a Pachino, dove i piccoli produttori hanno tanti problemi, di cui l'ultimo, il più grave, è il crollo del prezzo. Alcuni produttori è stato perfino detto di non raccogliere più perché il mercato è saturo. C'è uno di questi piccoli produttori, Alto Beninato, che vuol farle una domanda. Io vorrei chiedere al ministro Martina perché i piccoli produttori siamo tagliati fuori dal prezzo finale del prodotto. In quanto non il nostro prodotto, quando passa dalle mani dei confezionatori alla grande distribuzione, e noi non abbiamo alcuna remunerazione sul valore aggiunto del marchio. Gli risponde, eh? Ci siamo incontrati anche settimana scorsa con tanti di loro. C'è un punto fondamentale, in particolare in quelle terre: l'organizzazione dei produttori. Bisogna essere più forti, bisogna aggregare l'offerta. Sin tanto che non c'è questo lavoro, cioè i piccoli devono mettersi insieme, è molto complicato poter stare nel mercato, oggettivamente, al di là dei ministri. Quello c'entrate poco. Senta, secondo la Coldiretti, 3 cartoni di latte a lunga conservazione su 4 sono stranieri, la metà delle mozzarelle in vendita sono fatte con latte straniero. Dando avanti così, dice la Coldiretti, tra 30 anni l'agricoltura sparisce. Ci mettiamo ancora in pace. Noi stiamo attraversando una gravissima crisi del settore del latte in Europa. Ci sono realtà come la Francia, la Germania, l'Olanda ancora più in crisi di noi. Noi dobbiamo difendere la nostra zootecnia e riorganizzare anche questo settore fondamentale. Però l'Europa non ci aiuta su questo punto. L'Europa non ci aiuta ancora come dovrebbe. Deve fare di più. L'abbiamo regalata l'agricoltura in cambio dell'industria? No, questo no, però guardi, questo paese ha fatto anche scelte scellerate. Pensate al caso Parmalat di qualche anno fa. Senta, un altro dato: oltre le 1000 stalle hanno chiuso, delle quali 60% in montagna. Anche lì è un destino dei piccoli di sparire. No, non voglio rassegnarmi a quest'idea che chiudano soprattutto le stalle più piccole di montagna. Abbiamo fatto delle cose, delle scelte importanti per provare a accompagnare questa vicenda. Penso ad esempio ai premi accoppiati PAC, in particolare per la zootecnia di montagna. Io voglio continuare a preservare e a rilanciare questo settore anche quando si tratta di esperienze montane. Non è semplice, ma bisogna tenere il punto. Senta, Ministro Martina, degli 800 milioni stanziati per risollevare il comparto agroalimentare, quanti sono per il comparto del latte che è in crisi? Beh, parecchi, le do un dato. Noi abbassiamo la pressione tributaria sulle imprese agricole del 25% con queste scelte. E quindi quanti ne usate di questi 800 milioni? Tenga conto che tra IRAP e IMU noi 600 milioni li abbiamo destinati solo all'abbattimento fiscale, che vanno fondamentalmente alle imprese zootecniche. Non e gli solo. Altri? Beh, c'è tutto un lavoro di riorganizzazione di alcuni settori importanti. Ci sono 50 milioni a sostegno del rinnovamento delle macchine in agricoltura. C'è un grande lavoro che abbiamo fatto per innalzare la compensazione IVA, in particolare proprio per la zootecnia. Insomma, delle scelte concrete, operative. Senta, per come si può. Stiamo sull'operativo. Un altro tema su cui lei è stato molto chiaro è lo stop all'OGM. Perché? Io penso che l'Italia debba collocarsi, soprattutto in Europa, sulla frontiera più avanzata della ricerca. Io non sono un oscurantista. Ecco, ma che differenza c'è fra il genoma editing e gli OGM? Ci sono tecniche di lavoro sulla genetica vegetale più avanzate, in particolare più compatibili, e ci sono vecchie tecniche come la transgenesi che secondo me non sono compatibili con un paese come il nostro. Ecco, senta cosa ha detto la senatrice Cattaneo, senatrice a vita, sull'argomento a Riccardo Iacona a Presa Diretta. Ma secondo me è giusto che un ministro dica al mondo della ricerca come deve fare la ricerca? Ma assolutamente no, perché io questa lo contesto. Cosa, cioè che loro dicano, adesso possibile. Voi gli OGM non ve li facciamo fare, no? La ricerca. Se la volete fare, finanzieremo solo la ricerca col genoma editing. Io roba, penso che questo sia un altro modo nel resto del mondo, per diciamo. Tradire il dovere di un governo e di un ministro di consegnare ai cittadini, utilizzando denaro pubblico, il meglio delle idee sperimentali disponibili per innovare. E non è tollerabile più nel 2016 che ci siano ancora ministri che pensino di poter decidere a priori che cosa è meglio studiare in questo paese. Durissima, intanto Cattaneo. Nel 2016 bisognerebbe sapere che non è un ministro che decide questa cosa, ci sono leggi del Parlamento e ci sono votazioni però, di assemblee, quindi però, non semplifichiamo una tematica. Però che il tema che pone lei della ricerca, se un governo può indirizzare, essere lui che invece che dare solo gli indirizzi, ma, decide insisto, questo sì e questo bisogna avere no. La capacità di discuterla tutta questa questione, perché non è nemmeno un governo, è un Parlamento, perché in questo paese esistono le regioni e il tema della ricerca è materia concorrente, in e particolare quindi lei quando dice, sono, stiamo discutendo di ricerca in campo agricolo. Non sono i governi, ma sono no, i Parlamenti. Sto dicendo che queste partite, anche sul versante istituzionale, hanno una loro complessità, certo. E qui c'è una scelta di fondo. L'Italia può collocarsi sulla frontiera più avanzata della ricerca anche in campo genetico vegetale, lasciando secondo me da parte vecchie tecnologie oggi superate anche nel resto del mondo. Questa però è una scienziata autorevole. Che massimo dire... rispetto, però così come io rispetto lei, lei dovrebbe rispettare me. Certo, ma la ricerca sugli OGM non può essere fatta neanche in laboratorio, perché? Come no? Certo che si può fare in laboratorio. Informazione di servizio, oggi la ricerca in laboratorio è assolutamente libera. Questa è la notizia. Non so, per me non è una notizia, però magari sembra, per qualcuno sembra, sì. Sentendo voi, quindi lei dice noi diamo solo gli indirizzi. No, noi ci sforziamo di provare a collocare l'Italia su alcune tecnologie. E faccio notare che in Europa è aperta una discussione non banale esattamente su queste tecnologie, per fare che anche l'Europa, come gli Stati Uniti, classifichi sul piano giuridico queste tecnologie diversamente dalle vecchie tecnologie OGM. Ci sarà una ragione se gli Stati Uniti l'hanno fatto. No, ma dico, quindi significa che la senatrice Cattaneo difende una tecnologia superata, secondo lei? Io penso che la senatrice Cattaneo dovrebbe riflettere sul fatto che questo paese ha una complessità sul piano della sua biodiversità molto elevata, più alta di quella di altri paesi. Qui il tema è la compatibilità di alcune di queste tecnologie con un territorio maledettamente delicato come il nostro. Certo, io ne faccio una questione fortissima di compatibilità ambientale, non sanitaria. Ma lei l'ha fatto il dibattito con la Cattaneo su questo punto? Spero di avere occasione. Qua lo faremo. Vedremo. Invitiamo tutti e due, va bene? Has firmato? Firmato, l'impegno? No, però. Però insomma la disponibilità c'è. Senta, è vero che Renzi vuole ampliare le competenze del suo ministero? Sì, si dice. No, io ho proposto di riorganizzare il ministero. Questa fa una riflessione nel solco dell'eredità di Expo per stringere di più i rapporti tra produttori e trasformatori. Io penso davvero che sia il momento. Ma quindi questo in che direzione? Cioè, Ministero dell'agroalimentare. Ministero dell'agroalimentare. Lavorare di più perché quello che è accaduto ad esempio sulla pasta non accada più, proprio perché produttori e trasformatori devono sentirsi tutti i giorni fianco a fianco. Ma e fino adesso com'è? Perché sono competenze del MEF? Del MISE del per MISE, certi versi, del Ministero dello Sviluppo Economico, però guardi, non è tanto un problema di competenze dei ministeri, è una sfida che noi dobbiamo lanciare al settore agroalimentare, a viversi di più come squadra. Cosa il Ministero che dell'Agroalimentare spesso non accade. Io vorrei tanto che si facesse questa scelta. Senta, le faccio un'ultimissima domanda. Ma l'Atalanta in Coppa UEFA ci arriva? Ah, magari, magari. Ma mi piace pensarlo. Grazie, 800 24 0024 numero verde 349-238-6666 SMS. Pubblicità. X24. Allora Pietrangelo, stamattina che c'è? No, anzi, mi fai il titolo? Mario, un titolo? Ce l'hai? Non sono braccia. No, allora ti faccio un titolo. Vabbè, non sono braccia levate all'agricoltura, va bene. Non sono braccia levate all'agricoltura. No. E tu Pietrangelo? Qualche Expo, idea c'è? Expo, il buco con la toppa intorno. Dai, siamo stati buoni. Bravo Martino, è uscito vivo. Ma sì, allora, io l'ho visto in piedi quando è uscito adesso, allora che canzone ci fai sentire Pietrangelo? Two tabs on your tongue. Shepherds, I heard the sheep sleep, now my only one. Broken sweethearts, oh, who sleep alone. E pecore dappertutto stamattina, greggi ovunque, non un pastore, ma solo insonni. Tutti per strada, cuori infranti che dormono separati, hanno contato pecore per tutta la notte senza riuscire a prendere sonno. E gli ovini si sono sparsi dove non ci sono staccionate e nessuno può contarli. Insomma, ha chiamato Dürrenmatt e ha chiesto questo brano e ha ripetuto il suo messaggio accorato. Greco cerca greca. Allora Mario, tu? tua bolla, che cosa ci racconti? Anzi, cosa ci fai sentire prima? Prima, All in All. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Allora? Say money, money won't get you too far. Dobbiamo andare avanti ancora. Prima devi arrivare. Ma non la sento. Oh, hai visto che già accenna a cantare? Sì, no, sì, no. Sta cantando. Si deve liberare. Sì, si deve... Sì. È il suo coming out. Sono tre anni che andiamo avanti questa storia. Non me fregate. Allora, dunque. E ci siamo rifatti il PIL. Io stamattina... siamo rifatti? Il PIL. Ah, fantastico. Il PIL prodotto interno lordo nel 2015. Confermato l'obiettivo 0,8. Allora, è fantastico. Beh, è un risultato positivo, no? Assolutamente sì, siamo tutti contenti. E io sono addirittura, voglio dire, come, no, come italiano mi fa piacere. E ha fatto tornare i conti alla grande l'Istat, devo dire, perché è tornata indietro sulle sue previsioni che erano al ribasso. Come? Allora, non potendo alzare le stime per il 2015, ha abbassato quelle del 2014, calcolando meno spesa pubblica. Lo 0,8 dunque è fatto in realtà con un metro di paragone che era l'anno precedente più basso, e quindi ecco perché è salito. Cioè ha abbassato quello dell'anno prima? Sì, esatto. Quindi resta non solo, ma questo 0,8 sempre per amore della verità. Ma non era già dato quello dell'anno prima? Come fa a passare? Sì, hanno fatto la revisione, revisione improvvisamente. Ecco perché io sentivo Renzi che diceva tranquilli, sarà 0,8. Adesso ho capito tutto. Non solo, ma questo 0,8 sempre per amore della verità, per amore della lettura dei numeri, per un minimo, diciamo, di, come dire, di onestà intellettuale, sì, è fatto pure, per lo è fatto per lo 0,5 di variazione delle scorte. Per volgarizzare, diciamo così, sono prodotti finiti che sono in magazzino, di cui il mio sospetto, la maggior parte è attribuibile al gruppo Fiat, cioè automobili, sostanzialmente. Quindi 0,8 è il dato finale. C'è uno 0,5 di componente di variazione scorte, e naturalmente però è un dato in cui il governo ha centrato il bersaglio, come l'abbiamo visto. Numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. Dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Italia che cambia è la rete nata dal desiderio di mettere insieme e in contatto gli attori silenziosi di un'Italia che esiste e resiste, ma che è invisibile dall'esterno perché ignorata o poco considerata dai mass media. Filippo Bozzotti, socio di Italia che cambia. Come è nata la campagna dell'1% per cambiare l'Italia? Con Italia che cambia è da anni che mappiamo e mettiamo in rete i progetti virtuosi in tutta Italia. Ormai ne abbiamo raccolti più di 1500. L'anno scorso, con 100 di questi progetti, che noi che abbiamo ambasciatori, abbiamo lavorato su delle proposte per cambiare l'Italia, delle visioni per il 2040, economia che cambia, scuola che cambia, energia che cambia, 20 tavoli diversi. Dunque quest'anno vogliamo incominciare a mettere in pratica queste visioni concretamente sul territorio e di fare attivare i nostri utenti, i cittadini. Abbiamo pensato appunto di lanciare la campagna dell'1% per questo. Ecco, ma ho letto che sono già oltre 6 milioni le persone pronte a costruire un nuovo modello di vita. Ecco, quali sono i principi, le linee condivise di questo nuovo modello? Sì, guarda, allora, sul sito di italiachecambia.org abbiamo i nostri 7 sentieri, i nostri valori, a cui chiediamo agli agenti del cambiamento di aderire. I principi che ci rappresentano sono la collaborazione, un'economia buona basata sui tre pilastri della sostenibilità, quello sociale, quello ambientale e quello economico, la facilitazione come strumento di democrazia partecipativa. Insomma, siamo dei sognatori, però siamo dei sognatori concreti. Ma in che cosa, allora, che cosa consiste la campagna dell'1% concretamente? Ma allora, l'idea è perché per cambiare davvero le cose non basta mettere un mi piace su Facebook o mettere una X alle urne, ci devi mettere la faccia, no? Sì. Allora noi abbiamo lanciato questa campagna, io ci metto la faccia, noi chiediamo ai nostri utenti di iscriversi su italiachecambia.org e diventare un agente del cambiamento. Per diventare un agente del cambiamento devi partecipare o con l'1% del tuo tempo, dunque noi chiediamo 4 ore al mese, o con l'1% del tuo stipendio, qualunque esso sia, o meglio ancora con entrambi, attivandoti appunto sul territorio. Ecco, esiste un punto critico pari all'1% della popolazione oltre il quale il cambiamento nel giro di pochi anni cresce esponenzialmente affermandosi nella società, così sostenete. L'1% della popolazione d'Italia sono 600.000 persone, 600.000 agenti del cambiamento. È questo l'obiettivo della campagna? Sì, questo è esattamente l'obiettivo della campagna. Noi vogliamo arrivare all'1% delle persone. Per cambiare davvero le cose non bisogna raggiungere la maggioranza, bisogna avere l'1% dei cittadini che si attivano davvero. Ecco. E ci vuole tantissimo tempo per arrivare a questo punto critico, anni e anni e anni. Ma quando ci arrivi, tutto cambia velocemente, nel giro di 5 anni. E come si diventa agenti del cambiamento? Allora, per diventare un agente del cambiamento puoi andare su italiachecambia.org e iscriverti alla campagna dell'1%. Noi chiediamo 3 cose ai cittadini: di partecipare sul territorio a questa campagna col proprio tempo, con 4 ore al mese, di collaborare, di lavorare insieme e di aiutarci a promuovere queste visioni per il 2040. La cosa più importante ovviamente è l'azione, dunque a partire da cosa posso fare io da domani, cosa posso fare io nella mia comunità e cosa possiamo fare a livello nazionale. Insomma, questo è l'obiettivo della campagna. Insomma, l'unione fa la forza, diciamo. Esattamente. Ecco, e allora, per diventare agenti del cambiamento, per altre informazioni sulla campagna Italia che cambia, visitate il sito www.italiachecambia.org. Salamino. Se Roma piange, Milano se la ride. Le amministrative, lo sappiamo, sono un pantano nella capitale. La sinistra va a perdere, la destra non sa scegliere, mentre a Milano destra e sinistra vanno dritti verso 2 uguali e l'uguale più uguale ha già la vittoria in tasca. Il gallo è morto, il gallo è... Cantino pure i gufi, Peppuccio Sala ha un buco per Expo di 242 milioni di euro. L'ha detto il ministro che non è vero, che non si sa. Ha detto che c'è una toppa intorno al buco, cantino pure i gufi. Il gallo è morto. Ha detto più volte. Facciamo venire il ministro, dice che i risultati finali sono a aprile. Appunto, e qui casca l'asino, perché allora Peppuccio Peppeliello, come si chiama, Peppe Sala, cosa ha detto? Che il bilancio 2015 sarebbe stato positivo. Invece, come scrive oggi Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano, il bilancio è rosso, profondo rosso. Il gallo è morto, il gallo è morto. E cantino pure i gufi. Allora, ha preso il nostro Peppuccio Peppiniello, Peppe Sala, la mentina della menzognina 2 volte. Guarda, allora, che l'ha detto anche lui nell'intervista che ci ha fatto, sì, che c'erano 35 milioni di buco. Era una mentina, no, perché 30. Sul bilancio 2015, inutile, sul patrimonio netto positivo, che cosa è successo? Che il gallo... Il gallo è morto, allora, il gallo è cantino morto, pure questi gufi. Allora, la sostanza qual è? Andiamo con i numeri. Io che, insomma, nel mio piccolo teoretico ho trovato che questo buco, secondo la lettura fatta oggi attenta da Barbacetto sul Fatto Quotidiano, 44,1 milioni, tutti tranne che patrimonio netto positivo. Ma l'unica cosa positiva è che Peppuccio Sala, dagli amici più stretti chiamato Peppe Niello, si è candidato con la sinistra e perciò, morale insegna, chi si guardò si salvò. Il gallo è morto, il gallo è morto. Oh, cantino pure i gufi. Un'altra candidatura si profila a sinistra della sinistra, dopo quella vagheggiata a sinistra della sinistra di sinistra, ed è, si accettano scommesse, quella di Gerardo Colombo. No, stiamo tranquilli, ma è fatta. Domanda che ci domandiamo, domanda che ci domandiamo: riuscirà Peppe Niello, Peppuccio, il Pepin di Sala, a farsi rattoppare il buco? cantino i gufi. Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo, certo, è morto. Quando si mette a giocare con i numeri, Pietrangelo, insomma, alla no, no, rimando alla lettura precisa del Fatto Quotidiano di oggi. Va bene, l'abbiamo capito. Vai con la bolla, Mario. Vai. Sto andando a Washington. Cosa vado a fare? Non lo so. Volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente da qui. Lei ha gli occhi a mandorla. Mario, ecco, c'è Nicola che ti dà ragione. Dice, avete ragione, gli operai Seville di da maggio scorso mi raccontano di produzione per magazzino, furgoni intestati all'amministratore delegato Marchionne. Quindi è vero, si produce per il magazzino e di lì vengono i numeri. Beh, vabbè, questo è anche giusto, no? Solo che è l'abnormità, diciamo così, all'interno di quel numero della variazione scorte, che va sottolineata, secondo me. No, invece, ma infatti l'hai fatto. Sì, no, noi sì. Devo dire che la lettura dei giornali di oggi è sconvolgente. Beh, capisci, però, è uno scoop. Va bene. Diciamo solo noi. No, vai. No, noi anche qualche altro amico e collega sull'Huffington, mi sembra, no? Non so l'Huffington, ma sicuramente per esempio Mario Seminerio, che è un collega economista molto bravo, l'ha segnalato. Io vabbè, allora andiamo avanti Carnevale con il nostro insomma, vai con la bolla. C'è gente brava che segnala queste cose, non so perché non passa nel mainstream. Vabbè, e che ci faccio a Washington? Senti la Lucio Lalla. Ok, abbiamo beccato la pausa. Era partito a London City, ma deve arrivare a Washington. Vabbè, ci andiamo noi. Andiamo a Washington, è un grande pezzo questo. E nessuno l'aveva previsto molti, molti mesi fa, ovviamente, il Trump Day. E invece il pronostico è stato rispettato. Quindi Donald vince, Hillary pure. Diciamo che lei ha messo al sicuro quasi la nomination, anche se Bernie Sanders è un tipaccio che non si arrenderà facilmente. Mentre per Trump è una grandissima vittoria, non ha ancora diciamo i numeri sicuri, anche se mi pare molto chiaro che la coppia per il duello finale sarà quella. Reazioni. È uno scontro veramente fra due Americhe, eh? Sì, due Americhe, ed è una elezione molto interessante, questo a detta di altri osservatori, diciamo, è molto bella perché è cambiata l'America dopo 8 anni di Obama. Tant'è che alla questa ascesa di Trump, per esempio ieri, ha scritto un pezzo Martin Wolf sul Financial Times, che è un opinionista da leggere sempre con grande attenzione, spesso acuto, che ha detto è finita l'America, ora forse questo è un po' troppo, è cambiata l'America, non ci sono dubbi. E l'altra cosa è che appunto, questo è per l'oggi, per ieri nessuno scommetteva su Trump. Stamattina su Politico, anzi ieri notte su Politico, leggevo una cosa divertente sulle previsioni fallite degli opinionisti, che ne so, James Follows, che è la prima firma di The Atlantic, di fatto, e scriveva: Donald Trump non sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti, neppure il 46esimo o qualsiasi altro numero voi possiate immaginare. Le possibilità di una sua vittoria alla nomination e poi alle elezioni sono esattamente zero. Senti, e Mario, invece è andata esattamente così, al contrario. Senti, c'è Anna che scrive una cosa solo per te. A proposito di conti falsati, 16 miliardi al mese della falsati, BCE però non vengono mai nominati né come spese in più né come risparmio sul debito. Anzi, il debito aumenta, ma allora questi soldi dove sono? Io non so rispondergli, tu sì? Niente, spesa pubblica. Spesa pubblica, va bene. Il debito è spesa, emissione di altre cose, di debito, punto. Devo metterti in guardia perché potresti inavvertitamente, per disattenzione e leggerezza, dare modo di parlare di te in società. Non ho notato nulla personalmente, ma ho visto che gli altri l'hanno notato. Considero la gelosia offensiva per te e umiliante per me. Non ho il diritto di indagare sui tuoi sentimenti. Essi riguardano solo la tua coscienza, ma è mio dovere ricordarti che siamo stati legati da Dio. E questo legame si può spezzare solo con un delitto contro Dio. E hai un figlio. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS, questo mi sembra difficile, un aiutino non lo subito facciamo. Allora nevica, poi c'è la ferrovia e poi c'è l'amore. Sempre l'amore. Se c'è l'amore, la ferrovia e la neve. Vabbè, tu c'hai un Financial Times. Io ci metto l'amore. Io vorrei l'amore a questo punto. Visto che quello lo vogliamo tutti. Ma dateci l'amore. Vedetevi il Financial Times. No, ma magari lo trovi e poi capisci. Dici, la guardi bene e dici, vabbè, è una grande delusione. No, no, lei che guarda te ti manda a casa. Questo è sicuro. Pubblicità. Mix 24. Mancano una manciata di minuti alle 3 del mattino ora italiana quando le prime agenzie internazionali lanciano la notizia di un terremoto con epicentro in Corea del Nord. Alle 4.30 del mattino, l'annuncio ufficiale di Pyongyang, la Corea del Nord ha condotto con successo un test sul suo primo ordigno termonucleare all'idrogeno. Abbiamo effettuato con successo un test nucleare per difenderci dagli Stati Uniti, ha dichiarato l'annunciatrice della televisione di Stato leggendo il bollettino, che proseguiva così. Se gli USA non violeranno la sovranità della Corea del Nord, non useremo l'arma nucleare. Una sfida, una minaccia contro gli Stati Uniti e l'ultima follia di Kim Jong. La bomba del dittatore coreano sganciata a gennaio ha una potenza paragonabile alla bomba all'idrogeno che proprio gli americani lanciano sopra Bikini nel 1954. Nelle isole Marshall gli Stati Uniti hanno testato 60 bombe atomiche, la prima in un giorno d'estate nel 1946. Radio Bikini, il paradiso perduto, le cronache originali di radio e cinegiornali, l'orgoglio dei vertici militari, poi il fallout e la sconvolgente testimonianza di un marine inesorabilmente contaminato. Qui a Mix 24 il giallo della storia, dopo il giornale radio. Rodolfo, pronto? Sì, buongiorno. Rodolfo, buongiorno. Buongiorno, Torminoli. Da Pordenone. Sì, esatto. Allora, buongiorno. Che ci racconta di bello? Ah, è di bello che oggi non piove. Non piove? Perché è raro lì, piove sempre? Sì, ha piovuto molto. Molto, beh, meglio, no, per la campagna, sì, o no? Sì, assolutamente sì. Ah, lei che fa di bello? Io sono un lavoratore a tempo determinato in questo momento. Cioè? Cioè in che settore, voglio dire? Ah, adesso negli serramenti. Sono un operaio in serramentistica. Senta, intanto mi dice il titolo? Anna Karenina. Perfetto, giusto. Complimenti, bravo, ha vinto. Grazie, buon lavoro allora. Grazie. Grazie anche a voi. Grazie. Mario, c'è ancora una bolla? Ma due cose, le borse hanno aperto positive, quindi guardiamo con attenzione, siamo vicini alla prima ora di contrattazione, vediamo la giornata. Poi sai che c'è tutta questa discussione sui tassi di interesse che ormai sono negativi, segnalo l'opinione di Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve, che dice che è contrario a cosa? Ai tassi negativi. E quindi lui cosa farebbe? E niente, li riporterebbe positivi. Ovviamente, secondo ma me. Ma facendo cosa? Non lo so, uno stimolo diverso dell'economia. Sai, gli strumenti sono molti. Adesso si parla, no, di buttare praticamente il denaro. I tuoi elicotteri. Sì, gli elicotteri. Questa è la metafora. Ne parleremo. Ne parleremo, no? Certo. Intanto, col professor Roberto Bernabei, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Lancet, dicembre 2015. Confronto delle aspettative di salute dopo 20 anni in Inghilterra. Come sapete, stiamo invecchiando. L'aspettativa di vita continua ad aumentare e continuiamo a guadagnare 3 mesi per anno di aspettativa di vita. E il problema è sempre lo stesso. Sì, campiamo di più, ma campiamo come? Campiamo meglio, campiamo peggio, abbiamo più problemi cognitivi, cioè ci stiamo di più o di meno con la testa, funzioniamo meglio o peggio. E allora gli inglesi sono andati a vedere esattamente queste robe e hanno studiato 7500 inglesi nel 1991 e altri 7500, sempre ultra 65 anni, nel 2011, per vedere come si chiamano corti, la corte del 91 rispetto a quella del 2011 percepiva la salute, le abilità a compiere le attività della vita quotidiana, cioè il funzionamento di tutti i giorni, e la capoccia, come ci stavano con la testa. Tenete presente che tra il 1991 e il 2011 l'aspettativa di vita è aumentata di 4,5 anni per gli uomini e di 3,6 anni per le donne. E quelli del 2011 percepivano la loro salute come migliore rispetto a quelli del 91, funzionavano un po' meglio di quelli del 91 e il deficit cognitivo, i problemi cognitivi erano gli stessi. Il numero di quelli che ce l'avevano erano gli stessi di quelli che ce l'avevano poi nel 2011. A dire che cosa? A dire che sostanzialmente c'è un'aspettativa di vita maggiore e c'è anche una qualità di vita migliore. Però tenete presente che tutto si sposta a destra, come dire, nel senso che siccome i numeri sono questi e invecchiamo tutti, siccome invecchiamo in tanti, non pensate che comunque poi, se arrivate a 90-95 anni, sono 90-95 anni per tutti tranquilli. Nel numero vasto c'è certamente un altro numero importante di persone che non stanno bene come avrebbero magari voluto. L'invecchiamento ancora non siamo riusciti a sconfiggerlo. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una serenata per chi aspetta che il proprio desiderio venga condiviso. È Jovanotti e Pavarotti che cantano Serenata Rap, mixata dal vivo con Mattinata di Leoncavallo. Serenata Rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci credere alle cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi. Chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. Composta da un fremito regalo, in adore non ha creato da far, e tu non ti desti e di lavoro, io sto vedo lei.